Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, subito la giornata di borsa, che è un'altra giornata difficile, non so se si possa dire mal comune mezzo gaudio, nel senso che Milano, pur perdendo tanto, perde un punto in meno rispetto a Parigi, a Francoforte e anche a Londra, devo dire. Il motivo si chiama banche francesi, ma anche banche britanniche. Meno 4,80% Parigi, meno 5% Francoforte, meno 4,20% Londra, meno 3,70% Milano in questo momento. Molto molto negativa anche l'America, il 3,16% di calo sull'indice Dow Jones, mentre il prezzo delle materie prime, e questa è una buona notizia per chi produce e importa, meno come scenario generale, il prezzo delle materie prime è in netto calo proprio sulle previsioni di un rallentamento dell'economia l'anno prossimo, ma già nel finale di quest'anno. E ne parleremo nel corso del programma. Parleremo anche con la numero uno in Italia di Standard & Poor's, l'agenzia di rating che ha dato praticamente lunedì, ha abbassato il voto lunedì notte al nostro paese, e cercheremo di capire che cosa influenzi il voto delle agenzie di rating, viste anche le accuse che sono state fatte, che leggono troppi giornali italiani o che vengono influenzate da elementi non di carattere economico. E la vicenda francese in apertura, ma non solo: il Fondo Monetario Internazionale è riunito oggi e è intervenuta anche la neodirettrice Christine Lagarde. L'euro è scivolato da quota 1,37 a quota 1,34,5. Questa può non essere una cattiva notizia. Un euro un po' più basso aumenta le nostre esportazioni. Certo, fa pagare un po' di più l'energia, ma il petrolio in questo momento è a $81,59, quindi è quasi $80 il barile. Questo potrebbe compensare il calo dell'euro. Stiamo cercando di vedere notizie positive in una nuova giornata di passione sulle borse, questo è chiaro. Bene, la Popolare di Milano è l'unico titolo assieme a Intesa San Paolo e Mediobanca positivo. La Popolare di Milano guadagna il 5,70, Intesa San Paolo lo 0,70, Mediobanca lo 0,45. Chi perde di più oggi? Saipem, molto forte oggi il calo anche sui titoli legati appunto alle materie prime e agli energetici. Saipem meno 8,90%, Tenaris meno 8,80%, Pirelli meno 7,80%, Atlantia meno 7,20%, Mediaset meno 6,80%, Fondiaria meno 6,7%, Exor meno 5,80%, come Prismian. Il 5,50% lo perde Autogrill, il 5% lo perde Tod's e il 4,90% lo perde Fiat Industrial, il 4,70% il calo di Eni e di Unicredito, il 4,5% quello di Luxottica e anche di Mediolanum, il 4,40%, il 4,30% lo perde Finmeccanica, il 4,20% il Monte dei Paschi, il 4,1% lo perde Enel ed Enel Green Power, il 4%, e qui mi fermo, è il calo di Telecom Italia e di Assorin. Per il resto devo dire che meglio si comporta il Banco Popolare, che perde solo l'1%, come Generali meno 1,5%. 349-238-6666 per i vostri sms, subito le notizie in breve. Volete sapere dell'oro? L'oro è in calo a $1,773 al barile. Alcuni di voi ci chiedono di dare anche la quotazione del Baltic Dry Index. Che cos'è? È un indice che misura il prezzo per le principali rotte dei cargo a livello mondiale del noleggio dei cargo stessi. E qual è la logica dietro? Più alto è questo indice, più vuol dire che c'è commercio mondiale, che l'economia è in espansione, perché costa di più trasportare merci nei cargo, nelle grandi rotte marittime internazionali. Più basso è l'indice e chiaramente più l'economia è in rallentamento. Allora, dopo aver toccato un minimo storico nel 2008 a 600 punti, il Baltic Dry Index era risalito, viaggiava a 3-4 mila punti fino al 2007-2008, giusto per dare l'esempio. Praticamente a ottobre era arrivato anche a dicembre è arrivato anche a 4.000 punti, adesso è ridisceso, se vogliamo dire tutta prima dello scoppio della crisi, e quindi prima dell'ottobre del 2008 questo indice viaggiava a 11.700 punti, crollò a 600 punti quando, ricorderete, c'erano le navi, i cargo fermi davanti ai porti di Hong Kong, di Anversa, perché costava più scaricare che non restare in rada. Si è poi ripreso, ma siamo lontanissimi dal livello del maggio del 2008. Ripeto, 11.000 punti allora per il Baltic Dry Index, adesso siamo sostanzialmente ridiscesi a 1.700 punti, cioè possiamo dire che siamo a un decimo del valore del pre-crisi per quello che riguarda il costo del noleggio dei cargo per trasportare merci. Il motivo dell'attacco a BNP Paribas, ha perso quasi il 50% del valore in 10 giorni. I dubbi, adesso ne parleremo, i dubbi che sulla solidità di BNP Paribas, sono circolate voci che i vertici della banca francese stiano preparando un roadshow in Medio Oriente per chiedere soldi, per chiedere un aumento di capitale, voci smentite dalla stessa banca, lo scriveva oggi il Financial Times, ma insomma... tutto questo ha portato a vendite massicce sui titoli bancari francesi e non solo. Chi va bene, inteso come rischio, è il debito tedesco. Quanto costa infatti la Germania trovare finanziatori per il suo debito ha toccato un nuovo minimo storico. Pensate che il Bund, il BTP tedesco a 10 anni, rende come rendimento lordo l'1,67%, cioè un livello bassissimo. Perché questo? Perché in un momento di tale incertezza su tutti i mercati, anche quello americano, la Germania viene visto come il paese, la Germania e il suo debito, come il paese più sicuro, e quindi si è disposti ad avere un rendimento bassissimo pur di tenere i soldi o di comprare e quindi investire in obbligazioni tedesche. A maggior ragione dopo che ieri la banca centrale americana ha tratteggiato uno scenario difficile per l'economia statunitense e ha lanciato la cosiddetta operazione twist, ossia allungare la scadenza dei titoli in portafoglio, come se tu portassi un bot a un anno, lo allungassi, lo facessi diventare un BTP a 5 anni. E quindi 400 miliardi di dollari acquistati, 400 miliardi di obbligazioni americane con scadenza a 6 e 30 anni, e contemporaneamente vendute invece 400 miliardi di obbligazioni americane con scadenze molto più brevi. Ancora, ho detto oro in barili, forse sì, mi fanno tagliare, no, all'oncia chiaramente, all'oncia, scusate ogni tanto. L'oro è a 1773,38 dollari all'oncia. Giustamente un ascoltatore dice: è vero che il petrolio è molto caro, ma insomma dare l'oro in barili ancora no. Avete ragione, mi ci mancherebbe. Comunque andiamo avanti, perché adesso arrivano i dolori, ossia come vanno gli indicatori sulla rischiosità del nostro debito. Tutti in aumento, ahimè, i due indicatori principali, i CDS, quindi Credit Default Swaps, ripetiamo sempre, il premio che si paga per la polizza per assicurarsi nei confronti del paese Italia è schizzato a 560 punti, 40 punti in più rispetto a ieri, e lo spread con la Germania, proprio anche perché la Germania sta abbassando i suoi rendimenti, viene percepita come sempre più sicura, è schizzata a 399 punti, vicino ai record, vicino ai 400 punti. Certo, ha pesato anche in Italia la decisione di ieri di Standard & Poor's, una delle tre agenzie di rating, di abbassare il voto a 7 banche italiane. Attenzione però, questa decisione è la diretta conseguenza dell'aver abbassato il voto all'Italia, al debito sovrano dell'Italia. Nel caso specifico, il taglio sul debito è stato effettuato su Mediobanca, Findomestic, Intesa San Paolo e anche le controllate Banca IMI, Cassa di Risparmio Bologna e BIS, che tutte passate da A più ad A, ridotto anche il voto della BNL. Anche il Ministero del Tesoro, dopo il Fondo Monetario, l'Ocse, il Centro Studi Confindustria, ha rivisto al ribasso le stime sulla crescita. Per quello che riguarda il 2011, secondo il Ministero, che tendenzialmente è sempre un po' più ottimista dei centri studi, quest'anno non andremo oltre lo 0,7% contro l'1,2% precedentemente stimato. L'anno prossimo non andremo oltre lo 0,6% di crescita. E anche qui il Tesoro ha confermato il percorso di pareggio di bilancio da qua al 2014, di riduzione quindi del deficit a zero. La manovra finanziaria definita necessaria è assolutamente in grado di reggere, perché il Tesoro oggi ha smentito quanto circolato ieri, cioè che si stia già preparando una manovra correttiva. Ha poi confermato, questo però il governo, l'intenzione di mettere mano alla riforma fiscale e assistenziale entro il 2012. Come va la pressione fiscale? Al 42,7% del PIL quest'anno, salirà al 43,8% nel 2012, salirà anche nel 2013 la pressione fiscale al 43,9% del PIL e poi scenderà un pochino nel 2014, quindi se si prende quella che è la pressione fiscale rispetto al PIL prodotto, è in costante crescita, lo dico senza polemiche, per favore non partiamo subito. per i vostri sms. Sì, ha ragione tecnicamente chi dice che gli Stati Uniti non hanno allungato le scadenze, hanno abbassato i rendimenti, cioè hanno comprato titoli di Stato a lunga scadenza e hanno venduto titoli di Stato a breve scadenza. Perfetto, è vero, cioè l'effetto è a sostanzialmente abbassare i rendimenti, pagare di meno su un debito, perché i titoli a lunga scadenza rendevano meno dei titoli a breve scadenza. Perché? Perché il rischio è percepito più per i prossimi anni a breve e meno su i 10 anni o i 6 anni. Primo tema allora, che cosa sta succedendo alle banche francesi? Ce ne siamo occupati già una settimana fa, quando iniziarono i primi problemi e iniziarono a scricchiolare i grandi colossi bancari. Lì si disse però, se ricorderete bene, le banche francesi calano perché sono molto esposte verso l'Italia, cioè la colpa era sempre dell'Italia, e soprattutto Crédit Agricole, che qui controlla Cariparma, BNP Paribas, che qua controlla BNL, pagano la loro esposizione verso l'Italia. Ora bisognerà trovare un'altra spiegazione, perché le banche francesi sono calate indipendentemente dall'Italia oggi. Ha perso Société Générale il 10%, BNP Paribas il 5%, Crédit Agricole il 7%, Natixis l'8%, Dexia, che è un gruppo assicurativo, il 6%. Allora, Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Mi sembra di poter dire che questa volta non è colpa dell'Italia, cioè abbiamo tante colpe, in giro siamo considerati la parte debole, il grosso obiettivo da attaccare, ma sulle banche francesi no stavolta. Il problema è che sulle banche francesi l'attacco dura da inizio luglio, nel senso che se ricordi bene, le banche italiane sono state messe nel mirino da più tempo, sì. E le banche francesi, ma anche le tedesche, apparivano, come dire, una sorta di isola felice. Dai primi di luglio non è più così, perché tutta la performance negativa delle banche francesi, che hanno perso quasi il 60% del valore, quindi hanno bruciato 70 miliardi solo le tre francesi di capitalizzazione, la caduta data dai primi di luglio ed è quasi ininterrotta, e lì bisogna chiedersi come mai. Spiegazioni ce ne sono tante, nel senso che i vertici delle banche continuano a rassicurare, il ministro del bilancio francese ieri è sceso in campo dicendo sono solidi e non vanno neppure ricapitalizzate, ma evidentemente il mercato non ci crede. E guardando un po' i loro conti abbiamo individuato qualche punto debole delle banche francesi, che cerco di riassumere in estrema sintesi. C'è il problema greco, nel senso che questo coinvolge un po' tutti, ma poi vai a vedere e scopri che tutto sommato Crédit Agricole, che insomma ha un'esposizione bassa, poi scopri che possiede una quota di controllo di una banca greca, l'Emporiki Bank, e quindi l'esposizione vera del Crédit Agricole è di 25 miliardi di euro, cioè se la Grecia va in default, certo. Crédit Agricole vede spazzare via una ventina di miliardi di euro e ha un capitale che sarà intorno ai 40, quindi metà del capitale mangiato da un possibile default greco. Sogena ha svalutato in parte i bond greci già nel primo semestre, BNP ha ancora 4 miliardi, ma anche lì forse non è solo la Grecia. BNP è vero che ha 30 miliardi di BTP italiani in pancia, perché poi possiede in Italia la BNL, ma anche questo credo non sia il tema vero. Il tema vero è che le francesi non hanno mai fatto pulizia nei conti dalla crisi dei subprime americani, nel senso che uno studio di Mediobanca ci dice che le tre banche francesi hanno in pancia CDO, CDS, ABS, insomma quella roba tossica e della crisi precedente, che non è mai stata svalutata, e calcolano che quella roba lì ormai dovrebbe valere almeno un 40% in meno dei valori di carico, e quindi ci dicono che dovrebbero svalutare per cifre che per le tre francesi valgono circa 10 miliardi. E questo mi sembra un motivo più che sufficiente a giustificare un po' la fuga dalle francesi. Allora, riassumendo, c'è un'esposizione della Francia in generale verso la Grecia addirittura più alta rispetto alla Germania. Sì, sì. Da sempre, quello lo sapevamo, però insomma, è importante ricordare che la Francia, le banche francesi erano esposte per quasi 50 miliardi verso la Grecia. E questo non facilita le cose. Poi si scopre, per esempio, che come tu ricordavi molto bene, il Crédit Agricole, che teoricamente aveva solo 600 milioni di euro di bot greci, però controlla una banca greca, è un po' ricchi, no? E quindi la somma diventa 10 volte tanto. E vabbè, però questo spiegherebbe solo Crédit Agricole. Poi c'è un ragionamento complessivo, che è quello che riguarda invece hanno o non hanno messo in libro, cioè nei bilanci, la svalutazione di strumenti che avevano comprato, che avevano un certo valore nel 2007 e che hanno un valore che è un decimo nel 2000. E dal 2008 in poi, e tu ci racconti no, non l'hanno fatto, per cui a un certo momento prima o poi dovranno dire che questi strumenti derivati, e che sono ormai carta su carta, valgono molto molto meno, dovranno mettere la bilancia e si scoprirà che la svalutazione da operare rispetto ai tuoi investimenti è alta, è altissima, intorno ai 10 miliardi. Quanto però, Fabio, hanno influito anche alcune decisioni arrivate un po' alla chetichella, ma messa assieme, per esempio la Bank of China, che due giorni fa ha deciso di sospendere ogni prestito e operazione di swap con le tre principali banche francesi, oltre alla UBS Svizzera, Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas. Poi, come se non bastasse, la Siemens, il multinazionale colosso tedesco, ha ritirato più di mezzo miliardo di euro depositato presso Société Générale per trasferirli nelle casse della Banca Centrale Europea. Cioè, sono segnali non di estrema fiducia. Esattamente, il tema vero è che potrebbe essere vero o non vero, questo ancora non lo sappiamo. Oggi mormorano che la banca che si è rivolta ieri alla BCE per un prestito a una settimana da 500 milioni di dollari, pagati un tasso dell'1,1%, quindi molto di più di un normale finanziamento interbancario, quindi vuol dire che evidentemente le altre banche non prestano, sarebbe la francese BNP Paribas, ma anche questa è un'indiscrezione non confermata. Anche Siemens e Bank of China, le Société Générale e BNP hanno poi smentito questa cosa. Quindi il mercato si rincorre tra voci, la prima fu il 14 agosto proprio su Sogen, il primo allarme veniva da un giornale inglese che diceva che Sogen era in crisi di liquidità, anche quella smentita seccamente. Per ora questa crisi di liquidità non si vede, ma Ovviamente il mercato, per non saperne leggere né scrivere, di fronte a una possibile crisi di liquidità e a rumori sempre più insistenti di fondo, tende ovviamente a non fidarsi più e quindi scatta una sorta di effetto diffidenza. C'è un altro tema sulla liquidità, che è vero che le banche francesi anche lì hanno un problema più di altre ad assicurarsi i parametri di Basilea 3, perché il vero problema è proprio una sorta di manovra tenaglia, cioè tu hai la crisi del debito sovrano da un lato e dall'altro Basilea 3 che ti impone comunque di aumentare il capitale. Questa cosa rischia di essere una mossa mortale un po' per tutte le banche, per le francesi in particolare, perché anche qui, secondo gli analisti, loro avrebbero più difficoltà a assicurare un funding stabile, a coprire rischi di liquidità. E sono davvero quelle più in difficoltà, sempre secondo gli analisti. Quindi unisci le cose, derivati in pancia mai svalutati, una sensazione che sulla raccolta e sul funding le banche francesi siano più in difficoltà delle altre. Questi elementi qui, insieme alle voci appunto su crisi di liquidità, non fanno che peggiorare sempre di più lo stato, il malessere nei confronti dei tre francesi, che per ora non passa. No, non passa, hai ragione. Oggi hanno dimezzato il valore in un mese. In due mesi hanno perso metà del valore tutte e tre, una conto. Cosa che insomma non fa pensare, perché poi la Francia mantiene la tripla A, non va dimenticato, no? C'è una sorta di attacco, come dire, alle banche che stanno nel cuore d'Europa ed è singolare questo fatto. Sì, perché il paese è considerato dall'agenzia di rating assolutamente affidabile, al massimo del voto, diciamo, sull'affidabilità, eppure il suo sistema bancario ha perso, ripetiamolo, il 50% del valore, i tre colossi, in due mesi. Anche i nostri non scherzano, ci hanno messo un po' più di tempo. Diciamo che sulla Francia è tutto scoppiato, come tu ricordavi, inizio luglio, e non è mai passato e anzi ha conosciuto un'accelerazione continua. Tra l'altro fu proprio la neo direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, la Christine Lagarde, ex ministro all'economia francese, a gettare un po' nel panico i mercati due settimane fa, dicendo ci sono alcune banche in Europa che hanno problemi, come la lungimiranza. No, lo dico perché nel ringraziare Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, saluto invece anche l'inviato del Sole 24 Ore a Washington, dove c'è l'incontro annuale della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, c'è anche il ministro Tremonti per l'Italia, e mi riferisco a Alessandro Melli. Alessandro, buonasera. Buonasera a voi. Hai sentito Fabio Pavesi sull'analisi sulle banche francesi. Immagino che la Lagarde non fosse altro che per passaporto sarà più che preoccupata. La borsa di Parigi adesso ha chiuso con un meno 5,16%, la peggiore in assoluto. La Lagarde stamattina ha ripetuto un po', forse smorzando leggermente i toni, credo per non creare ulteriore allarme, quello che il fondo ha detto più volte in questi giorni, e lei stessa ha detto in questi giorni, cioè che la prima cosa da fare in Europa, o una delle prime cose da fare in Europa, è rafforzare il capitale delle banche, perché le banche in questo momento sono in una situazione che può rischiare poi di trascinare con sé in un tracollo l'economia. Sì, ma chi è che deve rafforzare questo capitale? Già sta rallentando di suo. Ma chi è che deve rafforzare questo capitale? Cioè, i governi hanno già messo quello che potevano nel 2008-2009, no? Anche in Francia e in Germania, per salvare le banche. Cioè, devono fare un aumento di capitale? Sì, l'ipotesi preferenziale è che si trovino dei capitali privati. Siccome però non tutte le banche saranno in grado di raccogliere capitali privati, il Fondo Monetario dice a questo punto siano i governi, siano fondi pubblici in qualche modo a ricapitalizzare le banche, e credo che questo sia abbastanza inevitabile se non vogliamo trovarci con un sistema bancario in bancarotta. Alcune banche saranno in grado di raccogliere questi capitali sui mercati, altre banche evidentemente no. L'altra cosa che ha sottolineato il Fondo Monetario, che è un po' il discorso che faceva Pavesi poco fa, è l'assoluta mancanza di trasparenza nei bilanci di molte banche europee per quello che riguarda il trattamento dei derivati. Si riferiva ai derivati, ma il Fondo Monetario si riferisce anche al trattamento dell'esposizione nei confronti del debito sovrano dei paesi europei in difficoltà. Del resto c'era stato un richiamo anche dall'organo di coordinamento sui principi contabili, lo IALT, qualche settimana fa, che aveva richiamato le banche europee al fatto che non si capisce esattamente qual è l'esposizione, soprattutto come viene trattata nei bilanci delle banche. Quindi questo ovviamente crea ulteriore incertezza per i mercati e decisamente contribuisce ai crolli che abbiamo visto in questi giorni, perché naturalmente se i mercati, gli investitori non sanno cosa c'è nella pancia delle banche. Sì, tu fai bene. Mi sembra che tu stia dando, a maggior ragione dalla prospettiva del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, tu stia dando per scontato che le banche o le principali banche europee dovranno compiere aumenti di capitale, e visto che non ci riusciranno solo trovando azionisti che vogliono mettere soldi nella banca, toccherà ai governi intervenire di nuovo? Ma questa è l'ipotesi che si fa, del resto è impensabile immaginare che i sistemi bancari d'Europa vengano lasciati crollare, perché naturalmente c'è un po' questa idea, no, che i banchieri devono pagare, eccetera, però poi alla fine se falliscono le banche le ripercussioni sull'economia reale possono essere molto molto pesanti, quindi in linea di principio è giusta l'idea che i banchieri paghino, alla fine però in una situazione di emergenza come questa, se lasciamo fallire le banche, è chiaro che l'impatto sull'economia è che voglio dire, già nel 2008, nel 2009 Italia meno, ma Francia e Germania tantissimo, non parliamo della Gran Bretagna, hanno imbarcato deficit su deficit e hanno imbarcato quindi debito per salvare le banche. Poi scopri a distanza di 2 anni che nel caso delle banche francesi non si sa quanti strumenti tossici abbiano ancora in corpo, a quanto li abbiano in carico, che vuol dire che tu li hai comprati pagandoli 100, ma siccome tutti sappiamo che adesso valgono 10, prima o poi lo dovrai mettere nel bilancio che perdi 90 su quello strumento lì, non puoi continuare a dire che vale 100, no? E vedere che di nuovo toccherà ai governi, quindi agli stati e quindi ai cittadini salvare le banche, ti deprime un po'. Molti ci chiedono, ma cosa sono serviti gli stress test? Evidentemente a niente, Alessandro. Beh, gli stress test non tenevano conto, intanto per cominciare gli stress test erano stati condotti prima di questa ultimo tracollo dei mercati, perché sono stati pubblicati a luglio ma erano stati condotti questa primavera. È chiaro che la situazione da luglio in poi è nettamente cambiata, e questo lo ha ammesso anche il Fondo Monetario ieri, quando hanno chiesto, è stata fatta la stessa domanda ai dirigenti del Fondo Monetario, sì. Ma insomma alla fine questi stress test cosa sono serviti? E giustamente negli ultimi 3 mesi la situazione è molto cambiata, sicuramente non è cambiata per il meglio. L'altra cosa è che negli stress test si partiva dall'ipotesi che è un po' il grande tabù d'Europa, che nessun paese in Europa fallirà e che quindi il debito sovrano continuava a essere trattato come se effettivamente tutti i paesi alla fine ripagheranno il debito che hanno. Cominciamo a vedere che sicuramente nel caso della Grecia, ma forse anche nel caso di qualcun altro, non sarà così. Per cui gli stress test avevano come ipotesi di base il fatto che il debito sovrano in Europa fosse intoccabile. Da allora abbiamo visto che probabilmente non sarà così, e quindi a questo punto... Sì, diciamo, erano degli stress test fatti con poco stress, visto quello che è successo. Comunque, meteo, pubblicità, poi vorrei chiederti ancora una cosa, e quindi di nuovo in collegamento con Alessandro Melli da Washington, 349-238-6666 per i vostri sms. Sì. 17.41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere sul fondo monetario, sulle preoccupazioni per le banche europee. Sì, chi ci dice, ma quanto monta il numero complessivo, il valore complessivo dei derivati, dei futures, CDS e quant'altro a livello mondiale? È stimato tra le 5 e le 7 volte il PIL mondiale, quindi 5 pianeti Terra, 6 pianeti Terra quanto a PIL mondiale. Alessandro Melli, un passaggio di Zelic, quindi Zelic, che è il presidente della Banca Mondiale, un po' così, un po' pilatesco, perché si dice siamo in zona pericolo, ma non ci sarà la recessione. The world is in a danger zone. In 2008 many people said they did not see the turbulence coming. Il mondo si trova in una zona di pericolo. Nel 2008 sono stati molti ad affermare che non avevano visto la tempesta avvicinarsi. Ora non si può più ricorrere a questa scusa. Tempi difficili richiedono persone coraggiose. L'atteggiamento di alcuni esponenti dei paesi industrializzati è stato quello di dire che si trattava di una questione che interessava solo loro, ma non credo proprio che sia così. Io non credo che ci si debba aspettare una ricaduta nella recessione per le maggiori economie. Credo che questo sia improbabile. È anche vero che il mio convincimento su questo aspetto viene intaccato ogni giorno alla luce delle notizie giornaliere sulle difficoltà dell'economia. Una crisi che scoppia nel mondo sviluppato può trasformarsi in una crisi anche per i paesi in via di sviluppo. Europa, Giappone e Stati Uniti devono agire, gestire e risolvere i propri problemi economici prima che diventino problemi ancora più gravi per il resto del mondo. Se questo non viene fatto, si tratta di un atto da irresponsabili. Agire significa affrontare discussioni oneste e difficili sia in Parlamento che con l'opinione pubblica, ma ogni ritardo ridurrà la possibilità di scelta e le renderà ancora più difficili. Delay will narrow choices and make them harder. Allora, Alessandro Merli cerca di tranquillizzare il presidente del Fondo Monetario Internazionale. Poco fa però è intervenuto l'amministratore delegato di PIMCO, che è il più grande fondo comune di investimento al mondo, e ha detto: l'economia è sull'orlo di una nuova crisi. Tu che cosa hai raccolto come sensazione, mettiamola così? C'è moltissima preoccupazione, è evidente che da parte delle autorità in questo momento ci sia anche il tentativo di calmare un po' le acque, però è chiaro che se guardiamo ai dati che vengono da molte economie, comprese una come quella tedesca, che fino a poco tempo fa era considerata una delle locomotive, vediamo che ci sono i segnali, se non di una recessione, di una crescita molto molto vicina allo zero, quindi anche se nessuno ha la sfera di cristallo, sicuramente l'economia è in rallentamento molto forte ed è chiaro che la situazione dei mercati così instabile a dir poco non aiuterà gli sviluppi futuri. Diciamo che ci si attende da queste riunioni di Washington che almeno i policy maker, le autorità diano il senso di aver percepito questa situazione e e agiscano. Insomma, stasera c'è una riunione del G20, l'Europa è molto molto sotto pressione sia da parte dei cosiddetti BRIC, i paesi emergenti, che sono riuniti proprio in questi minuti, altri sei paesi cappeggiati dal Canada e dal Regno Unito hanno fatto una lettera al G20 per sollecitare l'Europa all'azione, quindi diciamo che in questo momento l'epicentro della crisi è l'Europa, bisogna sperare che l'Europa faccia qualcosa al di là degli annunci delle scorse settimane, alle quali poi non è seguita una messa in atto tanto efficace. Sì, volete sapere il nostro gufo dopo le parole del numero uno del primo fondo di investimento al mondo, PIMCO, lui si chiama Mohamed Rian, il gufo è in depressione, è un gufo sotto Prozac. Grazie Alessandro Merli, il traffico e poi la borsa. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Allora, Eleonora Micheli, buonasera, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera. Abbiamo parlato in tutta la prima parte delle banche francesi, di quanto abbiano perso, ripeto, chi ce lo chiede, il 50% del valore delle tre principali banche in due mesi. E non è un caso se Parigi oggi in borse tutte molto molto negative. Parigi la peggiore, meno 5,25, Francoforte meno 5. Capirai, Londra meno 4,60, Milano meno 4,50. L'America sta perdendo parecchio anche adesso, meno 3,30%. Un po' delusi gli investitori anche dalle decisioni della Federal Reserve di ieri, molto incerta sul da farsi, a parte aver fatto questo swift tra obbligazioni a breve e obbligazioni a lungo, ma poco altro, e molto dubbiosi anche viste le parole che arrivano dal Fondo Monetario e dalla Banca Mondiale se si riuscirà a evitare quantomeno la recessione, il double dip, cioè la doppia recessione, e avere una crescita bassa ma sempre, sempre crescita. Come mai in questo scenario la Popolare di Milano guadagna il 4,88%? Sì, la Popolare di Milano infatti ha imboccato la strada del rialzo già questa mattina, si scommette su imminenti notizie sulla Popolare, in particolare si è tornati a parlare con insistenza sull'eventualità che Matteo Arpe possa partecipare all'operazione di aumento di capitale, ma non solo lui ma eventualmente anche altri investitori, e poi si attendono novità soprattutto dal consiglio di amministrazione in calendario monetario martedì prossimo e che dovrà esaminare la variazione della governance con l'eventuale passaggio al duale. Tutte notizie che hanno fatto scattare peraltro anche una serie di ricoperture che hanno portato in alto appunto le azioni. Ancora bene, andava bene, poi ha chiuso invariata Mediobanca. Qui c'è una dichiarazione di Bolloré, il finanziere francese Vincent Bolloré, che è il capofila degli azionisti esteri in Mediobanca, nonché vicepresidente delle generali, che a parte che ha detto che l'Italia è più solida della Francia, auguri alla Francia, ha anche espresso giudizi positivi su Mediobanca in generale. Prego. Sì, esatto, Bolloré diciamo che ha detto che ha messo in secondo piano Standard & Poor's, ha detto Standard & Poor's ha abbassato il rating a tutti e questo non ha significato. Per quanto riguarda Mediobanca, che appunto il cui giudizio è stato tagliato proprio ieri da Standard & Poor's, ha detto io continuo ad acquistare azioni. Non appena parlato, i titoli di Mediobanca che erano in terreno positivo hanno virato al rialzo, sono arrivati a guadagnare oltre l'1%, poi appunto sul finale hanno frenato e hanno chiuso comunque sulla parità in una giornata da brivido. Sì, da brivido veramente, ma non tanto, lo dico che ci scrive oggi, le banche francesi hanno fatto una giornata che dimenticheranno difficilmente, con cali tra il 7 e l'8% nei principali listini, nei principali titoli. In Italia devo dire che le nostre hanno già dato in questi mesi, però a calare non sono state soprattutto le banche. Intesa San Paolo ha perso l'1,5%, quindi meno dell'indice, la Popolare Emilia Romagna ha perso il 3,70, UbiBanca il 4,10, certo il Monte dei Paschi ha perso il 6% e Unicredit il 6,30%, ma è più variegato rispetto al solito. Hanno perso moltissimo i titoli legati o al settore industriale o anche alle materie prime. Tenaris meno 8,90, Pirelli meno 8,30 a 5 euro per azione, Saipem meno 8,20, Atlantia meno 8,1, Fondiaria meno 7,40, Mediaset meno 7%, Exor meno 6,40, Unicredit meno 6,30, Monte dei Paschi meno 6%. Come mai gli industriali e gli energetici? Gli industriali e gli energetici... Eni fa, scusami se ti interrompo, meno 5,30, Enel meno 5,1. Industriali e gli energetici, visto che ormai si inizia, come avete detto già prima in trasmissione, a ragionare su una frenata, su una recessione. Del resto la Federal Reserve ieri non ha fatto tanti giri di parole, ha messo in conto i rischi di una frenata dell'outlook economico che peserebbero sui mercati finanziari globali. Non solo, delle prospettive economiche. Esatto, non solo, ma poco fa Christine Lagarde, il direttore del Fondo Monetario Internazionale, ha detto che l'economia mondiale sta entrando in una fase pericolosa, la crescita è rallentata, ci sono all'orizzonte rischi di frenata, la ripresa attesa è a rischio. Ovviamente con tali dichiarazioni si mette in conto una frenata, addirittura una recessione del ciclo economico. Esatto. Ancora andiamo su qualche titolo un po' che meglio si è mosso, oggi non se ne trovano tantissimi, però andando tra i migliori e i peggiori faccio notare che Archimedica ha fatto il 18,26% di rialzo, bene anche in Tech più 5,40, la Popolare di Milano l'abbiamo detto, la Società Sportiva Lazio più 4,40%, ieri ha vinto con il Cesena la Lazio, ma non penso che sia solo questo, no? Ha vinto con il Cesena e le vittorie sportive fanno sempre bene ai titoli, ai tifosi. In, in aggiunta la società ha annunciato di essere tornata all'utile nell'esercizio terminato a fine giugno. Ancora Archimedica, novità, notizie, insomma, più di... Archimedica è un titolo che si muove sulla speculazione, molto... Beh, diciamo, quale titolo non si muove sulla speculazione in questo periodo, Leonora? Per cui... No, certo, però essendo poco liquido ovviamente è più facile farlo muovere, soprattutto in sedute magari come questa. Ebbene, appunto, in Tech, proprio di Milano, che cosa era successo a un certo momento alla Cairo Communication? Cairo Communication era andata molto bene durante della seduta, poi ha rallentato, in questo caso sono i dati sulla raccolta pubblicitaria del terzo trimestre che avevano acceso un po' i riflettori sui titoli. In effetti la raccolta per la pubblicità sui canali la 7 e la 7D è salita del 38% nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2010, quindi dati molto importanti che fanno ben sperare per i conti dell'azienda. Allora, i peggiori, SEAT, pagina gialla sul risparmio, meno 13,22, ING, meno 9,70, scusami, ING, meno 9,70, Gas Plus, meno 9,20, Crédit Agricole, le banche francesi, alcune sono quotate anche in Italia, meno 9,14, Salvatore Ferragamo, meno 8,96, e poi Tenaris, meno 8,87%. Grazie, Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore. Adesso lasciamo lo spazio al GR e poi invece torniamo per parlare con il numero uno di Standard & Poor's Italia e capire se è vero, come l'hanno accusati, che leggono troppi giornali italiani, ascoltano troppi PM, ma in sostanza e seriamente capire come struttura, organizza e definisce un voto, un'agenzia di rating, nel caso specifico il voto appena abbassato al nostro paese. 349-238-6666 per gli sms. Minuti, seconda parte di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Tra pochissimo parleremo anche dell'agenzia di rating e di come formulano il loro giudizio. Vedo molti messaggi ancora sulla borsa. Allora, ripetiamo, è chiaro che c'è un problema specifico da settimane sulle banche francesi, ne parlammo due settimane fa. Il valore del loro titolo si è dimezzato, parlo delle principali, Crédit Agricole, BNP Paribas e Société Générale. Oggi è sicuramente stata, lo dico senza nessun tipo di compiacimento, la giornata della Francia, meno 5,25% l'indice, che però ha trascinato, vuoi per le prospettive sulle banche francesi, vuoi perché le banche sono molto interrelate, anche la Germania meno 5%, l'Italia meno 4,5% in borsa, e l'America sta dando il suo contributo, si fa per dire, meno 3,85% il Dow Jones, Londra ha perso il 4,70%. Faccio però notare che a pesare sulla borsa di Milano più che i titoli bancari, certo il Monte dei Paschi ha perso il 6% ed è parecchio per essere buoni, così come un titolo come Unicredit ha perso il 6,30%, è sceso a 65 centesimi di euro, siamo a livelli post Lehman Brothers qui. Però a pesare oggi sono stati soprattutto i titoli legati al ciclo economico e l'allarme che sta arrivando dal Fondo Monetario Internazionale la dice lunga, e infatti Saipem, Tenaris, Pirelli e Atlanti hanno tutte perso più dell'8%, tra l'8,1% e l'8,87%. Allora, inizio settimana Standard & Poor's, come ricorderete, ha tagliato, ne abbiamo parlato ampiamente, il voto al debito italiano, portandolo da A più ad A, con prospettive negative. Ieri l'effetto ha cascato anche su 7 banche italiane, detentrici di molti titoli di Stato italiani, ma non solo per questo. Per capire tutto ciò e quanto sta accadendo siamo in collegamento con Maria Pierdicchi, che è responsabile in Italia, la numero uno in Italia di Standard & Poor's. Buonasera dottoressa. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, l'Italia è nell'occhio del ciclone, ma anche voi non scherzate. Allora, vediamo di mettere un po' di puntini sulle i. Al di là di quello che è successo nel passato, vorrei stare sul presente e anche sul futuro. Voi lunedì sera avete tagliato il voto all'Italia portandolo da A più ad A con outlook negativo. Ne abbiamo parlato molto a lungo, avete detto che i 60 miliardi di risparmi e altri obiettivi della manovra di bilancio sono difficili da raggiungere, c'è un'incertezza politica sui mezzi con cui affrontare le sfide economiche, cito testualmente dottoressa, e poi le autorità italiane restano riluttanti a affrontare le questioni chiave. Allora, come se non bastasse, poi ieri sera avete tagliato anche il voto su Mediobanca, Findomestic, Intesa San Paolo e Banca IMI, Cassa di Risparmio di Bologna e BIS, ridotto anche il rating della BNL. Prima domanda, quando voi date il voto a un paese, lo fate leggendo i giornali, guardando i fondamentali economici, facendovi influenzare, diciamo, da quello che è il dibattito politico, da opinioni anche che possono essere di parte, dalle inchieste della magistratura? Dunque, Dunque, bisogna ricordare che il rating è un'opinione indipendente sulla l'affidabilità finanziaria, in questo caso di un ente sovrano. È un processo analitico piuttosto complesso che viene portato avanti da degli analisti specializzati. Ogni rating è sempre frutto di un lavoro di un comitato, quindi di almeno 5 analisti. Cosa utilizziamo? Utilizziamo una serie di dati ufficiali, di tutte le fonti ufficiali governative, istituzionali, ovviamente fonti statistiche, nonché anche una serie di fonti pubbliche o direttamente acquisite attraverso incontri sia con gli enti oggetto di rating, ma anche con altri esperti, economisti, istituzioni e via dicendo, quindi diciamo fonti primarie e fonti anche secondarie. Oltretutto seguiamo ovviamente tutte le vicende importanti di un paese e chiaramente dobbiamo anche leggere tutti i fatti e le analisi che emergono anche dalla stampa, però direi che il lavoro fondamentale sono tutti i dati ufficiali e poi i dati che noi acquisiamo direttamente. Vorrei anche ricordare che però il rating è poi il frutto di un'elaborazione di questi dati, di una nostra analisi dove facciamo delle nostre previsioni e in base a queste previsioni viene poi assegnato il rating attraverso dei criteri analitici specifici e pubblici disponibili. Per il sovrano sono 5 aree di analisi in particolare. Cioè per il giudizio su un debito di un paese sovrano. Sì. Visto che poi faccio giornalista ancora, almeno spero, mi interessa molto la parte sui giornali, ma insomma, quant'è il peso della stampa nel formulare un giudizio su un paese? Guardi, l'analisi finanziaria è un'analisi piuttosto complessa che si basa su moltissimi dati e analisi, quindi stiamo parlando chiaramente fonti quantitative e qualitative di ogni tipo, anche di carattere istituzionale. L'analisi di un paese vuol dire conoscere il sistema bancario, il sistema di leggi, tutto, quindi sono tantissime le fonti. La stampa è sicuramente un elemento che dobbiamo tenere presente perché ci informa sui dati anche e sui fatti quotidiani, però direi che è complementare a un lavoro molto, molto dettagliato e continuo nel tempo che riguarda soprattutto fonti primarie. Ecco, ma tra le fonti primarie e le fonti secondarie, insomma, gli articoli di giornale lei li definirebbe come pesanti nel giudizio finale, abbastanza pesanti? Marginali, complementari? Credo che dobbiamo guardare il rating veramente come un processo analitico molto complesso e articolato che tiene conto di tantissimi elementi e ripeto, è anche delle analisi proprietarie, quindi delle nostre valutazioni che elaborano dati, proiezioni economiche e aspettative che poi vengono riflesse nella nostra valutazione degli elementi che compongono il rating. E i giornali li leggete tutti? Ma guarda, io non sono un analista, quindi io ne leggo moltissimi, sono certa che i nostri analisti ne leggono altrettanti, abbiamo grandi rassegne stampe ogni giorno, però chiaramente, ripeto, il maggior lavoro è il lavoro sui dati, sulle analisi, sugli elementi acquisiti, proprio di tipo analitico. Allora, adesso c'è il traffico, dottoressa Pierdichi, poi dopo le informazioni sul traffico vorrei capire invece quanto pesa sempre nella composizione del voto finale sul debito di un paese l'elemento politico, il giudizio politico. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Focus Economia e con Sebastiano Barisoni, ultima parte del programma. Allora, siamo in collegamento con Maria Pierdichi, che è la responsabile in Italia del numero uno di Standard & Poor's. Dottoressa Pierdichi, allora, una certa insofferenza dei governi, di tutti i governi, al giudizio dell'agenzia di rating è normale, comprensibile, perché insomma fanno politica. Lo stesso Barack Obama, quando voi come Standard & Poor's abbassaste il voto all'America, al debito americano, disse: non ci riconosciamo in questa decisione. Però insomma, quanto pesa realmente la valutazione che voi date sulla situazione politica nel formulare poi il voto definitivo o abbassare o cambiare il voto definitivo a un paese? Vorrei ricordare che la nostra è una valutazione assolutamente apolitica, è una valutazione sull'affidabilità finanziaria basata su elementi tecnici e analitici che ho descritto precedentemente. Il nostro compito non è dire cosa un paese deve fare o quali sono le politiche giuste, ma semplicemente vedere ogni politica che effetti ha sulla capacità di rimborso e solo su quella, quindi sull'affidabilità finanziaria. Ci sono 5 aree di analisi per un rating sovrano. Uno è il rischio politico, quindi il rischio politico è inteso come la capacità di portare a termine le azioni che un governo deve fare per governare l'economia. L'altra è la struttura economica del paese, poi c'è la liquidità esterna e la posizione verso l'estero, il debito, quindi l'andamento del debito e la flessibilità fiscale, e poi la flessibilità monetaria. Nel caso dell'Italia, di quest'ultima azione, sono due le aree che hanno su cui c'è stata una variazione di opinione che ha portato quindi alla variazione del rating da più ad A. Da un lato il rischio politico, in quanto abbiamo rilevato che una più fragile, diciamo, coalizione di governo in questo momento rende più difficile portare avanti quelle azioni che possono portare poi a una riduzione del debito, quindi una difficoltà più di, diciamo, di implementazione, e dall'altro lato l'andamento del debito, che è arrivato ora a circa il 117% del PIL, vediamo una difficoltà per questo debito a scendere, data soprattutto la minor crescita del paese. Abbiamo rivisto le nostre previsioni di crescita da 1,4% allo 0,7%, evidente che questo rende più difficile portare in una traiettoria di discesa il debito. Inoltre vediamo dei rischi anche nell'implementazione della manovra, dovuta anche al contesto europeo più fragile dal punto di vista della domanda e anche a un impatto potenzialmente un po' depressivo che le misure potrebbero avere sulla domanda interna, nonché il costo del debito, che rimane una variabile in questo momento un po' in crescita. Quindi se io dicessi che i due motivi, lei le chiama giustamente aree, ma i due motivi che vi hanno portato a abbassare il voto sull'Italia sono stati il rischio politico, la diversa valutazione, come è cambiata la vostra valutazione sul rischio politico e sull'ammontare del debito, potrei, non sbaglierei, diciamo? No, senz'altro, queste sono le due aree analitiche che sono state impattate, il rischio politico e l'andamento del debito, e quindi la possibilità che noi avevamo già, di cui avevamo già parlato in passato, di poter riportare il debito a livelli minori, quindi di una potenziale discesa del debito, che vediamo difficile in un contesto di minor crescita. È evidente che le nostre proiezioni di crescita hanno determinato anche queste valutazioni, perché avendo noi oramai uno scenario di crescita per l'Italia inferiore a quelli precedenti, questo impatta sulla capacità appunto di realizzare gli obiettivi. Vorrei anche ricordare il fatto che il rischio politico, diciamo, questa maggior difficoltà di risposta diciamo politica, maggior debolezza, riguarda anche le riforme strutturali, quelle che potrebbero aiutare la crescita, come le liberalizzazioni, la flessibilità del mercato del lavoro e via dicendo. Cioè, rischio politico vuol dire maggior debolezza del governo in questo caso? Minor capacità di risposta alle sfide economiche. Cioè, una maggior debolezza del governo, quindi, insomma. Diciamo una minor capacità di trovare una coesione e di realizzare delle cose che peraltro avevamo annunciato nei precedenti commenti e azioni di rating. Avevamo anche detto che, diciamo, la coalizione di governo così solida dell'ultima legislatura era un fattore di forza inizialmente per poter portare avanti determinate riforme strutturali, se rivediamo i nostri rating passati. Dottoressa Pierdicchi, lei, insomma, avete chiarito molto bene, lei l'ha ripetuto, che tra le vostre aree di valutazione che compongono poi il vostro giudizio c'è anche, oltre che il debito, i fondamentali economici e quant'altro, c'è anche il rischio politico, la valutazione politica su un paese, che è una cosa, lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666, assolutamente normale per un analista, lasciamo stare le agenzie di rating, è normale che un analista guardi anche se un paese ha una coalizione forte, se deve andare a elezioni. La Spagna per esempio si è molto avvantaggiata nell'aver indetto elezioni, aver fatto una manovra congiunta governo-opposizione, non è un mistero per nessuno. Quando però venite accusati di ingerenza nell'azione politica, lei personalmente si amareggia? Ci resta male? Ripeto, le nostre non sono valutazioni politiche, valutazioni. Ma lei ci resta male, nel senso che... Vorrei ricordare che il rischio politico, statisticamente, storicamente, nell'analisi del rischio sovrano, ha un'importanza, è associato all'andamento di determinati eventi nel profilo di rischio di un ente sovrano, perché è storicamente dimostrato. No, ma volevo capire delle critiche che avete ricevuto, e ne avete ricevuto giustamente, uno lavora, riceve anche critiche, quella che le ha fatto più male qual è stata? Quella, diciamo, del muovervi per motivi interferendo in quella che è l'azione politica di un governo? Ma guardi, le nostre sono opinioni e quindi come tali sono anche soggette a critiche e opinabilità, quindi siamo assolutamente aperti alle critiche e sono gli investitori che devono utilizzarle nel modo più corretto, che se le ritengono valide, se le ritengono credibili, quindi noi dobbiamo fare solo il nostro ruolo, che è quello di fornire agli investitori valutazioni indipendenti e ben articolate su criteri trasparenti, quindi le critiche sicuramente fanno parte anche. Però ce ne sarà qualcuna che ha trovato più ingiusta, visto che tanti anni che lei fa questo lavoro, cioè le critiche sono sempre o possono essere spesso costruttive, ci mancherebbe che uno non potesse criticare le agenzie di rating e dire quello che pensa, ma un conto è criticare, un conto è fare un'accusa insomma, con un movente e con degli elementi assolutamente inconsistenti. Ci sarà qualche critica che lei ha trovato particolarmente fuori luogo? No, io penso soprattutto che magari a volte non si dà abbastanza importanza alla trasparenza della nostra analisi, cioè il fatto che comunque le nostre opinioni sono ben articolate, ben spiegate, e credo che ci siano tutti gli elementi per poter essere d'accordo o non essere d'accordo con le nostre opinioni. Ecco, a volte questo elemento di trasparenza credo che sia un po' sottovalutato, quindi noi su questo abbiamo fatto grandi sforzi per essere più trasparenti, per dare più elementi agli investitori, per inserire una serie di variabili. Credo che forse non sempre a livello questo venga recepito, però ripeto, il nostro lavoro è rivolto soprattutto agli investitori e loro forse hanno più una capacità anche tecnica di capire rispetto magari certe all'opinione pubblica. Un'ultima domanda, dottoressa Piedicchi, adesso io non voglio entrare ma insomma, quando lei sente dire che voi avete degli azionisti, quindi siete in conflitto di interessi, anche noi abbiamo degli azionisti, come Sole 24 Ore. Io personalmente penso che poi il lavoro di ognuno dimostri se è o no autonomo, ma insomma fate anche un lavoro molto delicato. Lei quando si sente dire che i vostri azionisti poi vi influenzano, che non siete così indipendenti e trasparenti? Ma guardi, io dico che innanzitutto siamo soggetti a una regolamentazione molto stringente e che abbiamo delle policy e delle procedure che ci proteggono l'integrità e la confidenzialità del processo di rating, quindi trovo questa teoria veramente assolutamente assurda. Infatti abbiamo proprio, non c'è nessun potere per nessun azionista di poter influenzare azioni che si basano su delle policy molto strette, supervisionate dai regolamentatori, con dei codici di condotta e di comportamento estremamente rigidi, quindi trovo tutto ciò veramente abbastanza assurdo. Io la ringrazio anche per la freddezza, perché io so che qualcosa le avrà dato fastidio veramente di alcune critiche, ma non me l'ha voluta dire neanche sotto tortura, e non è che posso andare oltre. Grazie alla responsabile italiana di Standard & Poor's, dottoressa Maria Piedicchi. Grazie a voi. Bene, e non riesco, non ce la faccio a leggere tutti gli sms che stanno arrivando. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berlusconi le auguro di una buona serata. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto godetevi una buona serata e non pensate alla borsa. Radio 24. La passione si sente.